Buon pomeriggio e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Massimo Zamboni, chitarrista, cantautore e scrittore, cofondatore dei CCCP e CSI, insomma uno dei grandi nomi del rock italiano. Benvenuto Massimo. Buongiorno a tutti e grazie per il titolo onorifico. Allora, siamo qui per parlare del tuo ultimo album da solista, La mia patria attuale, uscito il 21 gennaio per Universal Music, in un periodo in cui la parola patriottico, ecco, si è tinta di sfumature più variegate e qualche volta problematiche. Qual è l'obiettivo di un album che presenta un titolo del genere? Ma l'obiettivo è il ragionamento da una parte e anche il cercare la propria identità, che è una ricerca continua, molto ondeggiante, molto variegata, come dici tu, nel senso che non è mai così determinata. Anche l'idea di abbinare l'aggettivo attuale alla parola patria, che si pretenderebbe fissa, eterna, immutabile, questa patria deve sapere che lei per noi è un'eventualità, non è una certezza, perché troppe volte abbiamo visto mascherare questa parola da ingiustizie, soprusi, diseguaglianze, violenze anche terribili, e non è una parola che si possa accettare a cuor leggero. Eppure italiani siamo, italiani ci considerano gli altri, italiano è la lingua con cui stiamo parlando ora, e quindi dovremo fare i conti con questa parola e con l'appartenenza che questa parola ci obbliga a considerare, e questi sono un po' i presupposti del lavoro. La lavorazione di questo album inoltre è avvenuta, come ormai tutti, da 2 anni a questa parte, durante le restrizioni pandemiche. Immagino che questo abbia decisamente influito sulle sonorità e le tematiche, ecco. Ma diciamo che io speravo di poter risolvere l'album in studio con i musicisti con cui lavoro di solito, invece è stato un lavoro molto più solitario per forza di cose. Lunghi viaggi verso lo studio da Reggio Emilia a Brescia in solitaria, con rientri notturni e ripartenze il giorno dopo, accompagnato al massimo da un musicista, e tutto coordinato da Stefano come produttore. Però questa è anche la cifra dell'album, è la cifra del tempo, quindi in qualche modo è andato a influire sicuramente dal punto di vista dell'arrangiamento, che forse è volutamente scarno, tiene conto proprio di quello che potevamo fisicamente fare. Però poi credo che sia anche il suo valore questo, è un po' più uno specchio di questi anni. Immagino che quindi una domanda sulla collaborazione con Capossela e tutte in realtà poi i grandi nomi che ci sono in questo album insieme a te si risolva un po', ecco, in questa difficile collaborazione in remoto. Beh, in qualche modo sì, avrei voluto anche invitare fisicamente Vinicio a questo album. C'è una canzone che è Il canto degli sciagurati, che secondo me sarebbe stata perfetta per una coppiata, ma non era veramente possibile farlo, neanche pensabile, e quindi c'è questa telepatia che ci lega, ma si è dovuta risolvere a quel livello. È un album che, appunto, abbiamo detto è uscito il 21 di gennaio, è già disponibile in digitale, in CD e in vinile. Inoltre c'è un'edizione speciale in collaborazione con Librerie Coop. In cosa consiste questa collaborazione? Ma ci tenevo molto a questo, perché quando si parla di patria o di soggetti pesanti, diciamo ad alto peso specifico, io credo che bisogna investire di questa responsabilità non soltanto chi compone l'album e lo porta fino in fondo, ma anche altri soggetti che con quella parola si sono confrontati nel corso della loro storia. Io conosco abbastanza bene la storia della cooperazione, so che è nata a Reggio Emilia, è una cosa che appartiene agli emiliani in primo luogo, poi si è estesa a tutto quello che era l'egemonia che gravitava attorno al Partito Comunista, al PC, e quindi so quali sono i presupposti di solidarietà che hanno fatto nascere quelle strutture. Indipendentemente da quello che sono ora, sembra questo gigantismo, diciamo, sembra molto lontano dalle origini, eppure credo che bisogna portare anche questi grandi soggetti a considerare insieme a noi le parole che ci tengono assieme, che ci tengono uniti, che sono veramente la base della nostra convivenza come patria. E quindi non è un caso che mi sono rivolta alla Coop, come non è un caso che loro abbiano capito, intuito ed accettato questa proposta. Per cui c'è un'edizione speciale pensata per le librerie Coop, che differisce da quella, diciamo, standard, per una serie di cartoline che recano nel fronte delle foto che ho fatto io senza pretesa fotografica, diciamo, più il contenuto che mi premeva veicolare, con degli scritti inediti che le accompagnano e che parlano di questa nostra patria attuale. Quindi ecco, le parole sono al centro di tutto l'album. Anche perché il valore della parola è sminuito fortemente sia nel dibattito politico che in quello culturale, insomma si vada molto di più alle belle trame, ai litigi, alle risse, a come vanno a finire le storie, alle sciocchezze, alle cose leggere, no? All'intrattenimento. quando invece credo che in particolare in un momento difficile come questo la pesantezza della parola vada ricercata e vada riportata proprio alla radice, alla base del nostro parlare tra di noi, nel nostro rapportarci. Io sento tutta la responsabilità della parola, perché questo è il momento per farle parlare in maniera suonante, non in maniera così arzigogolata da come un abbellimento. Bene, spero che questo tuo progetto musicale possa aiutarci a riscoprire, ecco, l'importanza delle parole. Ti ringrazio per essere stato ai microfoni di Radio Città Fujiko e in bocca al lupo con questo album. Buon proseguimento e alle prossime.